Questo è l'EP, pezzi di merda, gennaio 2011, SKIZZO, aspettando di indietreggiare, si parte. È come fare l'amore, canzoni a rallentatore, cervelli cronici, logici che vanno peggiore. Adesso è tutta salita, questa è soltanto la vita, che torna indietro di secondi dopo un'ora fallita. Tempo regna sovrano, il tempo è un degno avversario, che quando arriva molti lascia scampo e predestinato. Tutto questo per dire che il tempo non va a dormire, che arriva lento e certe volte pure ti fa soffrire. Con questo primo lavoro non sono ancora all'altare, quindi restiamo seduti aspettando di